Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Primo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, vicenda curiosa ma anche esemplare da cui trarre ispirazione per non cadere nello stesso tranello. Ben trovato al presidente dell'Adico Carlo Garofolini, ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Dunque, succede a tanti di essere contattati telefonicamente a casa, magari per dei sondaggi, magari per una serie di iniziative. Alla fine questa famiglia, mestrina se non sbaglio, si è ritrovata ad acquistare una corposa batteria di pentole. Cosa è successo? Come hai detto te, amico, una faccenda che sicuramente la possiamo ritenere simbolica proprio per far capire da come si è originata, e cioè da un sondaggio telefonico, a come si è poi sviluppata, di cui le persone, anziché trovarsi in un viaggio premio omaggiati, come era stato detto, perché si erano resi disponibili a rilasciare questa indagine, hanno di fatto sottoscritto una batteria di pentole per un valore di circa 6.000 euro. Care le mie pentole, belle costose, 6.000 euro. Com'era iniziata questa vicenda? Hanno ricevuto una telefonata da chi? Sì, praticamente questi signori hanno ricevuto una telefonata, hanno cominciato a rispondere dei quesiti. Poi, in virtù di quello che è stato un viaggio premio proposto di andare a ripiare presso un famoso hotel di Mestre, le persone quel giorno si sono recate al luogo appunto definito e assieme ad altri sostanzialmente hanno assistito alla celebrazione di quello che è stato un po' una proposta di vendita, di cui in virtù anche di un regalo come un computer e di una poltrona massaggiatrice, alla fine, diciamolo non con inganno ma nella confusione, si sono trovate a sottoscrivere. E a distanza di giorni, anziché poi recuperare, ricevere il viaggio, si sono trovati a consegnare a casa una batteria di pentole e l'importo da dover saldare entro pochi giorni di circa 6.000 euro. Poi ovviamente si sono rivolti all'Adico per cercare di avere aiuto. Voi, dopo aver ricostruito tutti i passaggi, come avete agito? Ecco, fortunatamente siamo riusciti a risolvere bene e anche in tempi brevi questa vicenda, perché abbiamo subito fatto valere quello che il codice del consumo prevede in questi casi quando degli acquisti avvengono fuori dai centri commerciali, e cioè quello che è il diritto di recesso, che ad oggi è di 8 giorni e 10 lavorativi per esattezza, e quindi hanno potuto un attimino stracciare il contratto. Però certamente questa è l'occasione per ricordare alle persone diverse cose. La prima, che se non vogliono essere disturbati a casa, oggi è obbligatorio registrarsi al registro delle opposizioni. Questo si può fare tramite un numero verde o tramite internet. La seconda, di non dover mai accettare nulla e soprattutto mai firmare nulla nel caso hanno dei dubbi, e terza cosa, cogliere l'occasione per dire che oggi, al di là di quello che è la normativa vigente in termini di recesso, dal 14 giugno entrerà la nuova normativa che sostanzialmente sarà più a favore del consumatore e si individueranno in maniera più chiara ed esemplare quelle che sono le responsabilità del venditore. Un tema che avevamo già affrontato qualche settimana fa, ma sul quale vale la pena tornare. Questa nuova normativa europea riguarda specificamente gli acquisti telefonici e online, giusto? Sì, i consumatori devono avere chiara la differenza tra quello che è un recesso che si può far valere solamente nella condizione di una vendita fuori dai centri commerciali, rispetto a quello che è la garanzia, che non prevede la sostituzione dei beni, a meno che questo non preveda dei difetti rispetto a quelle che sono le condizioni di fabbrica al quale viene venduto. In secondo luogo, i nuovi termini di recesso estenderanno la responsabilità del venditore non solo sul prodotto ma anche sulla consegna, perché ad oggi c'è sempre molta confusione tra il corriere e il venditore, che quando consegnano un pacco rovinato non si capisce mai di chi è la responsabilità. E in terzo luogo va a definire quelli che sono i giorni per poter eccedere, che sono 14 anziché 10, e poi i termini di rimborso, che devono essere 14 giorni dal termine dei 14 giorni di recesso, e in mancanza di precise clausole contrattuali che vanno a spiegare questi aspetti, il diritto di recesso può arrivare fino a un anno. Dal 14 giugno vale però questo, quindi state attenti e applicate le vecchie normative appunto per le prossime settimane. Torniamo alla vicenda delle pentole, alla fine loro hanno potuto restituire appunto senza pagare nulla. Senza pagare nulla, certamente le pentole sono state restituite integralmente nella confezione, quindi sostanzialmente non c'è stato neanche una manipolazione di quello che è il prodotto consegnato. Certamente una vicenda sicuramente importante, perché come hai evidenziato tu in apertura dell'argomento, fa capire come nel caso dei termini si rimanga entro i termini, non c'è l'obbligo di acquistare nulla, ma si può benissimo far valere il diritto di ripensamento e quindi richiedere eventuali acconti dati, ma meglio ancora non provvedere al completamento dell'accordo se si rientra nei giorni in cui uno veramente può recedere dall'acquisto, ma solo al di fuori da esercizi commerciali. E fatelo subito, appena vi accorgete, non fate passare giorni che poi vi possono così tornare indietro in modo negativo. Con l'Adico ci risentiamo non nella giornata di giovedì, che è festa, il 1° maggio, ma venerdì pomeriggio alle 17.40 per parlare di un altro tema caldo, caldissimo e purtroppo grave, che è la diffusione del gioco d'azzardo, soprattutto tra i giovani. Grazie al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te, Nico, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.